Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti. Non ce ne siamo quasi accorti, la settimana è volata, siamo al venerdì con Pietro Lacorte in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione e anche venerdì c'è il nostro sommario. Combinazioni vincenti. Scopri qual è lo sport complementare a quello che pratichi per allenarti al meglio. L'igiene sul tagliere. Correre fa bene alla vista. Venerdì pesce, venerdì attività fisica con il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo, responsabile del centro sportivo DDS di Settimo Milanese. Bentornato, benvenuto, grande richiesta, tantissimi fan, ammiratori che ci scrivono. Io sono divento quasi un po' gelosa di lei. No, assolutamente. Mi è piaciuta venerdì pesce, venerdì attività fisica, però... siccome venerdì è anche il giorno della passione, non facciamo un'attività fisica solo il venerdì, se no l'associamo a un concetto di sofferenza che non ci piace. 824 0024, questo è invece un numero che ci piace molto e che potete usare per intervenire in trasmissione, raccontarci la vostra, fare una domanda e potete fare mandarci anche un messaggio al 349 238 6666. Allora, insieme al dottor Confalonieri oggi vogliamo capire, siete fedeli oppure no? Cioè, non è che abbiamo cambiato genere, insomma parliamo sempre di sport. Infatti oggi vogliamo capire se siete fedeli a un solo sport oppure se invece praticate o preferireste praticare più sport. Dottor Confalonieri, lei cosa preferisce? Sì, ma lei non come medico sportivo, no. lei. Io faccio già fatica a praticarne uno saltuariamente e quindi sono assolutamente fedele per vocazione. Poi teoricamente no, nella teoria sarei per più sport, sarei proprio per una scelta di tipo multipla. E vorremmo anche capire non soltanto se praticate uno o due sport, ma anche se li alternate nell'arco del breve periodo, per esempio nell'arco della settimana, oppure nell'arco dell'anno, questa multidisciplina. Quindi fate degli sport d'inverno, degli sport d'estate, degli sport durante la settimana o degli sport durante il weekend. Ci sono tante possibilità e tante storie che vorremmo ascoltare. Raccontateci le vostre, ma prima di sentire che i nostri ascoltatori, abbiamo raccolto due testimonianze di due amici di Essere Benessere. Le abbiamo scelti medici perché, dottor Confalonieri? Per vedere, dato che voi medici sottolineate sempre che è importante fare esercizio fisico, almeno mezz'ora di attività fisica al giorno, e che lei aggiunge che deve essere graduale, che ci deve piacere, non ci deve far soffrire, ma vediamo loro che cosa fanno, come si misurano. Abbiamo intervistato Laura Vanossi, ha raggiunto il dottor Carlo Gargiulo, medico di famiglia e consulente medico della trasmissione Elisir, che così si è raccontato. No, io sicuramente dalla parte del monosport, perché penso che dedicarsi ad un'attività in particolare consenta di migliorarsi sempre di più, quindi una sorta di competizione con me stesso, e poi contemporaneamente consenta di indirizzare bene l'allenamento verso quel tipo di sport. Ma sicuramente lo sport principale, quello che faccio io fondamentalmente, è lo sci. Adoro sciare, mi piace la montagna, mi piace proprio l'ambiente e soprattutto mi piace questa sensazione che si prova quando con gli sci ai piedi nel silenzio si sente il frusciare dell'attrezzo sulla neve. Però purtroppo, vivendo a Roma, sono un po' in difficoltà nel poter sciare spesso anche per motivi di lavoro, e allora cerco di affiancare allo sci una sorta di attività fisica in palestra che mi aiuti per mantenere in esercizio le articolazioni, mantenere tonici i muscoli, fare tutte quelle cose che sono indispensabili per poi poter riuscire a praticare uno sport che potrebbe essere, se uno non avesse un buon allenamento, potenzialmente pericoloso. In questo modo riesco a conciliare bene le due cose e quando sono sulle piste sicuramente riesco a dare il meglio di me stesso. Niente di che, intendiamoci, però insomma me la cavo. Dottor Confalonieri, che dice di questo suo collega Carlo Gargiulo? Sì, amante della montagna. Lei non è tanto amante della montagna, no, invece lo sci saltuariamente lo faccio. Probabilmente non allo stesso livello del dottor Gargiulo, ma sì, sottolineerei due aspetti estremamente interessanti. Il primo: se siete sportivi competitivi, agonisti, un po' come lo è Gargiulo, allora indubbiamente la scelta del monosport è quella che vi si adatta di più, perché dedicarsi con costanza ad uno sport consente di migliorare, consente di vincere questa sfida con se stessi verso traguardi sempre più importanti. E questo è un primo aspetto importante. Il secondo è però che spesso, anche amando, facendo prevalentemente uno sport, è opportuno integrarlo con quell'attività che consente di farlo al meglio, compensando gli eventuali squilibri che questo sport determina. Quindi, in questo caso la palestra durante la settimana. Quindi sono due le ragioni che ci dovrebbero portare a compensare il nostro, a scegliere anche un'altra attività sportiva, no? Per compensare un po' quello che il nostro sport del cuore non ci dà. Esatto. E forse, l'avevamo già anticipato in un'altra trasmissione, per riuscire anche meglio nello sport che ci piace, fare una sorta di allenamento, esatto, come se andassimo a ripetizione, insomma. Sì, in questo caso la seconda attività è vissuta soprattutto, se non esclusivamente, in funzione della prima. Per essere ancora più competitivi e divertirsi ancora di più nello sport che amiamo, lo integriamo con un'attività che ci consente di essere al top. Andrei a sentire invece che cosa e come si allena, cosa preferisce, come si allena la dottoressa Giovanna Gatti, che è medico e presidente di Europa Donne e delegata europea del Forum Italiano. Andiamo. Io pratico più sport, pratico il kickboxing, corro quasi tutti i giorni e nuoto moltissimo. Questo perché ho un'artrosi con esiti di fratture da un vecchio incidente stradale che mi provoca molti dolori. Devo dire che praticare più sport mi aiuta a tonificare tutti i distretti muscolari e anche soddisfa un po' la mia voglia di variare un po'. Credo che lo sport sia anche piacere, non solo necessità fisica, quindi cambiare ogni tanto lo sport serve per avere l'impressione di fare qualcosa di diverso. In ogni caso penso che fare più sport, quando se ne ha la possibilità, possa essere benefico sia per la psiche che per il corpo, perché in fondo si muove tutto, si muovono tutti i muscoli e si ha un beneficio anche in termini, per esempio, di riduzione di dolori d'artrosi. Dottor Confalonieri, una bella lezione dalla dottoressa Gatti, che poi è varia, ci ha parlato anche di psiche, mi è piaciuta molto. Una bella lezione, e direi due lezioni complementari, perché qui ci troviamo una tipologia che è proprio l'opposta della tipologia incarnata dal dottor Gargiulo, cioè chi fa attività fisico sport con l'obiettivo fondamentale del benessere globale, cioè benessere in termini di salute, benessere in termini di forma fisica, benessere in termini di piacere psicologico. E quindi per chi cerca un benessere globale, l'integrazione di differenti attività è l'ideale. In particolare poi qui c'è un'integrazione intelligente, perché si alterna uno sport di rapidità, di velocità, di lotta come la kickboxing con due sport di tipo aerobico, il nuoto con un impegno prevalente delle braccia e la corsa con un impegno prevalente delle gambe. Quindi direi che la ricetta è perfettamente calibrata. E a proposito di ricetta, voglio leggerle un messaggio. Sì, venerdì stocca fisso, l'unico sport momentaneamente, faccio solo il sollevamento dei cesti di roba da lavare, degli scopettoni. E questo è un messaggio che volevo leggere al dottor Confalonieri a proposito di ricette, pesce, stocca fisso. E invece tanti arrivano messaggi sulla richiesta di quale sport abbinare a quello che stanno già facendo, quindi quasi che i nostri ascoltatori abbiano deciso, quelli per il monosport di oggi, di integrare, fare qualcosa. Terremo naturalmente conto del vostro livello di preparazione, terremo conto anche della stagione, dottor Confalonieri. Della stagione, del livello di preparazione, della organizzazione della giornata, perché è chiaro che integrare due attività può essere più difficile, ma può essere anche più facile, perché in pratica partiamo dall'organizzazione della nostra vita e vediamo gli spazi a quale attività si adattano maggiormente, e poi parte anche da come si integrano da un punto di vista fisiologico e medico le due attività. Insomma, faremo il possibile. 800 24 0024 è il nostro numero verde a vostra disposizione, i messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. Sul tagliere l'aglio taglia. Non tagliare la tovaglia. La tovaglia non è aglio. Se la tagli fai uno sbaglio. Ve la ricordate anche voi questa filastrocca? Io l'avevo imparata all'elementare, molti di noi hanno proprio imparato a usare la lieu, ma oggi noi non ci occupiamo di ortografia per fortuna, ma di igiene, nello specifico dell'igiene proprio dei nostri taglieri. E in linea con noi abbiamo il professor Fabrizio Pregliasco, virologo del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università di Milano. Buongiorno professore. Sì. Come si sente a non parlare di influenza ma di taglieri? Beh, sempre malattie infettive, quindi... Senta professore, sul tagliere non tagliamo solo l'aglio, come dice la nostra filastrocca. Pronto? Ma... Pronto, professor Pregliasco? È caduto il professor Pregliasco, adesso la Laura Vanossi va a ripescarlo subito, perché lei, dottor Confalonieri, sui taglieri penso che si tagli le dita, no? La vedo un po' pasticcione in cucina, non so come mai. Il tagliere lo utilizzo molto, nella preparazione per esempio del soffritto per i risotti c'è un uso del tagliere che è fondamentale. Devo dire, in attesa del professor Pregliasco, che... Sì, che è tornato, ecco, mi stanno facendo vedere. Ecco, professor Pregliasco, è caduto proprio sul tagliere. Ma il dottor Confalonieri diceva che lui lo usa per fare il soffritto. Ecco, che trovo sempre il professor Pregliasco in trasmissione a spaventarmi, perché un po' di tempo fa parlava... Bisogna, tutte le cose buone, bisogna in qualche modo, rovinarle un po', ma... Ma quando l'ha spaventata? Non mi dica così del mio Io che sono uomo di cucina, l'altra volta mi ha spaventato col lavaggio dei piatti, gli straccetti da cambiare continuamente utilizzando possibilmente quelli di carta. Oggi mi spaventa col tagliere, mi toglie uno dei pochi piaceri che mi sono rimasti. E Bene, magari facciamo un piacere a sua moglie, che così può rimettersi a cucinare lei e non far finta di mangiare delle squisitezze del dottor Confalonieri. Senta, a proposito di tagliere, legno o materiale plastico? Lei, dottor Confalonieri, cosa usa? Legno. Professor Pregliasco, bocciato, insomma, promosso. Da un punto di vista tecnico è meglio il materiale plastico, ma il problema è come sempre la manutenzione. Il guaio è che il tagliere può essere un luogo, se gestito male dal punto di vista igienico e poi dalla la presenza di tagli, di luoghi in cui i batteri possono replicarsi, un elemento appunto che spaventa, può spaventare, perché è il momento di diffusione di tutta una serie di salmonelle, clostridium, che vivono nell'ambiente e possono, durante il passaggio di un alimento crudo, soprattutto se rimane crudo e quindi non subisce il riscaldamento termico, in qualche modo poi come rischio alimentare di quindi infezione. Professor Pregliasco, se il dottor Confalonieri si ostina cocciutamente a usare il tagliere di legno, bisogna pulirlo molto bene ogni molto volta bene, e soprattutto un'attenzione a sostituirlo se davvero i tagli, i solchi sono molto ampi, o comunque riuscire anche durante il lavaggio con una buona disinfezione, con molto sapone, ma anche eventualmente con ammucchina o comunque un blando disinfettante, per poter ridurre la concentrazione batterica, che in questi casi è sempre molto elevata. Mentre lei mi sembra di capire, ma forse sto capendo male, che propende di più sui taglieri di materiale plastico. Sì, perché hanno una resistenza maggiore e soprattutto una lavabilità maggiore anche in presenza di eventuali fessurazioni o tagli nel materiale, perché non disperdono quella che è il truciolato del legno, quindi sicuramente dal punto di vista igienico, come semplicità d'uso e sicurezza, sono da preferirsi. Professore, ci sono anche i coltelli. Noi usiamo il coltello, affettiamo il pane, poi magari affettiamo il salame, poi quel coltello va a finire ad affettare qualche altra cosa, anche se ogni lama avrebbe le sue indicazioni, dottor Confalonieri, vede che non... però anche le stesse regole di igiene che noi applichiamo al nostro tagliere, che deve essere lavato ogni volta che viene a contatto con un alimento, la stessa vale per il coltello, vero professore? Ancora di più, per esempio, non so, anche farsi un panino al formaggio può essere un rischio se prima si taglia il formaggio, che nella parte superficiale ha anche una sua presenza di batteri naturali, anzi alcuni di questi sono proprio importanti per creare quello che è poi l'insieme delle qualità del formaggio, ma poi quando per esempio ritagliamo un panino per appunto procurarci questo sandwich, allora lì possiamo spalmare batteri e questo è un grande rischio, quindi un'attenzione a un uso e a un lavaggio frequente. Tra l'altro in questo caso il coltello, con le sue caratteristiche, non ha difficoltà a essere ben deterso, ben pulito, con tantissima acqua e abbondante tensioattivo, quindi sapone. Professor Pregliasco, la ringrazio per essere stato con noi. Il dottor Confalonieri forse si convertirà al tagliere, dottor Confalonieri? Mi convertirò anche, siamo molto quei taglieri in cui trovi il salame, il formaggio, il pane bello ed un sì. unico coltello un po' antico, fanno tanto piacere. Fanno piacere, infatti, un buon senso, quindi riprendendo queste considerazioni sempre senza esagerare, senza un eccesso di attenzione morbosa, ma sistematica, no. proprio in termini quotidiani, senza una particolare aggressività, ma con buon senso, come sempre. Professore, grazie per essere stato con noi. La inviterò ancora perché l'influenza è ancora lì che gira. Sì, siamo ancora per nella cui... fase ancora di infezione, anche se il picco è passato, ma mi sa che tutto il mese di febbraio ancora. Magnifico, così ci incontreremo. Professore, buona giornata. Altrettanto a tutti, arrivederci a tutti. Pronto soccorso. Abbiamo già tantissimi ascoltatori che ci aspettano. Claudio ci aspetta da Verona. Buongiorno Claudio. Buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione. Grazie. Io volevo andare sull'argomento dello sport e degli sport. Sì. Io ho la percezione ormai che andando avanti con l'età bisogna modificare le attività sportive. Siamo partiti a fare attività agonistiche, prendiamo per esempio il calcio, poi si arriva a fare calcetto e poi sappendolo le fatidiche scarpe al chiodo. Siamo partiti a fare roccia e arrampicata in montagna e poi ci convertiamo a fare trekking magari ad alta quota, ma è tutto perché con l'età non si recuperano più i traumi e per comunque responsabilità familiari e professionali sì. non possiamo permetterci di rimanere con le borse di ghiaccio per qualche giorno sui ginocchi e sulle caviglie, occorre spostarci verso quelle attività che evitano i traumi e permettono comunque di vivere all'aria aperta e soprattutto di avere orizzonti, perché gli occhi hanno bisogno di orizzonti sempre. È vero, Claudio, che bella cosa che ci ha detto. Grazie. E non vedo l'ora di invecchiare un po' di più per abbandonare lo sci da discesa, per dedicarmi a quelle splendide passeggiate in mezzo ai boschi con le sci da fondo, come ha detto prima il suo ospite, che riconciliano con la natura e rasserenano l'animo sicuramente. Grazie Claudio. Dottor Confalonieri. Sì, Claudio ci ha aperto una prospettiva assolutamente interessante rispetto al tema iniziale, fedeli o infedeli e quindi capaci di cambiare sport. C'è un'infedeltà nel tempo che è assolutamente intelligente e corretta, cioè attività che sono molto adatte in età giovanile, per esempio quelle a più elevata intensità o potenzialmente più traumatiche, diventano meno adatte con l'avanzare dell'età e quindi è correttissimo questo approccio di cambiare l'attività mantenendo il corpo attivo, mantenendo questi orizzonti davanti al nostro sguardo, ma passare ad attività meno traumatiche. Direi che è una prospettiva assolutamente interessante e corretta, consigliabile quindi a tutti. Titti ci chiama invece da Milano. Buongiorno Titti. Buongiorno, complimenti, c'ha una voce splendida. Grazie Titti. Me lo sai che ogni volta veramente mi viene la serenità a sentire il buon umore la mattina, vi ascolto tutte le mattine proprio anche per questo motivo. Grazie Titti, mi fai proprio una carezza al cuore. Il dottor Confalonieri è pronto, se vuoi raccontare qualcosa di te, sul tuo sì. sport. Allora, io ho 64 anni. Dai 52 anni ho imparato a nuotare, perché un medico onesto mi ha detto appunto che per la mia schiena ci voleva solo la piscina. Io non sapevo nuotare, mi sono andata da fare, veramente eravamo in 5 e sono rimasta da sola, le mie amiche hanno abbandonato, io adesso nuoto abbastanza bene e faccio 3 ore alla settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Sì. Lo sono proprio imposta, per cui proprio faccio questo. L'unica cosa, adesso intanto stavo sentendo anche che ci vorrebbe un altro sport. Magari, forse ci vuole un altro sport. Il nuoto è uno sport così completo, poi mi piace. Titti ha imparato a nuotare in età adulta e invece molti di noi non hanno mai il coraggio di intraprendere un nuovo sport. Si può imparare, non è mai troppo tardi, intanto non è che dobbiamo fare le Olimpiadi. Ma dottor Confalonieri, Titti dovrebbe integrare? Ma direi che in questo sempre più gente impara tardi anche sport apparentemente impegnativi come il nuoto, e questo è bello ed importante. Nel suo caso direi di no, c'è già un impegno continuativo, 3 ore alla settimana ben distribuite, c'è una forte gratificazione, è adatto sia all'età da un punto di vista del sistema cardiovascolare articolare, sia i suoi problemi di colonna, quindi in questo caso il mio consiglio è continui soltanto con il nuoto finché prova piacere a farlo. Allora, adesso noi ci fermiamo perché andiamo a sentire che cosa succede sui mercati. 824 0024. Poi commenteremo insieme una notizia che cade proprio a fagiolo, direi, nella nostra trasmissione. Una notizia che arriva da degli studi americani e che dice che a correre si salva la vista. Siamo tornati insieme, come vi avevo anticipato. Parliamo dei risultati di uno studio molto interessante che porta un po' acqua al nostro mulino, noi che insistiamo sempre, soprattutto al venerdì, sui vantaggi dell'attività fisica. Infatti, questo, in base a questi studi, camminare fa bene alla vista. Ma per leggere insieme a voi questa notizia e in modo più approfondito ho invitato il dottor Marco Marenco, che è oculista dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, un nome a noi molto familiare, ve lo ricordo, che mette a disposizione sempre per tutti voi un numero verde dove rispondono degli oculisti, ve lo ricordo subito, 800 06 8506. Dottor Marenco, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, chi corre salva la vista? Sì, questo studio dell'Università della California è molto interessante, ci dice che chi corre, chi fa attività fisica in generale, può ridurre i fattori di rischio, quindi il rischio di ammalarsi due patologie molto note, la cataratta, che tutti noi conosciamo, questa opacità del cristallino, e la degenerazione maculare legata all'età, che è un po' più complessa e che ci fa perdere la capacità della visione distinta, quindi di leggere, di riconoscere i volti. È anche importante l'intensità, vero, del nostro sforzo. Questo studio lo sottolinea molto bene, dottore. Sì, questo studio condotto all'Università della California ci dice che chi più corre, chi fa più chilometri al giorno, diminuisce sempre di più il rischio di ammalarsi di queste patologie. E questo perché in realtà la corsa, l'attività fisica migliora tutto il nostro organismo e quindi in un certo senso ci protegge dall'ossidazione, dal tempo che passa. I risultati per quanto riguarda la cataratta sono molto chiari. Le persone che corrono, che fanno un'attività fisica regolare, quindi che hanno un apparato cardiocircolatorio molto efficiente, hanno anche una riduzione dei livelli del sangue e delle proteine, quelle cattive, le LDL. E quindi salvano un po' il loro cristallino, vero? Salvano il cristallino, perché il processo di opacizzazione del cristallino è dato da un'ossidazione, sì, del tempo che passa, e da un problema di infiammazione generale. Queste molecole, le HDL, il cosiddetto colesterolo buono, hanno entrambe le funzioni, quelle di diminuire l'ossidazione e di contrastare l'infiammazione, che sono i due motivi per i quali viene questa, la cataratta, e si pensa anche la degenerazione. È molto provato il legame con l'efficacia sulla cataratta, ma anche sulla degenerazione maculare legata all'età, di cui io vi anticipo parleremo martedì con le novità, i trattamenti e soprattutto l'importanza di una diagnosi. Noi trascuriamo sempre i nostri occhi, le ricerche ce lo dicono, noi facciamo orecchi da mercante e ne torneremo a parlarne. Intanto, dottor Marenco, la saluto, immagino che lei debba lavorare, ma soprattutto ritagliarsi il suo spazio quotidiano di attività fisica per proteggere la sua salute in generale e anche i suoi occhi. Grazie dottore, buona giornata. Dottor Confalonieri, abbiamo intitolato un po' questa la nostra trasmissione Combinazione Vincenti. Scopri qual è lo sport complementare a quello che pratichi per allenarti al meglio. Questo è il titolo, ma come facciamo? In base a quali criteri? Noi scegliamo, mi lasci dire, l'anima gemella dello sport che noi stiamo praticando? Ma io direi che dovrebbero esserci almeno tre criteri da seguire. Il primo, un abbinamento dal punto di vista proprio medico-sportivo, quindi integrare uno sport prevalentemente di resistenza, classicamente il nuoto, il ciclismo, la corsa, lo sci da fondo, che ha effetti prevalentemente sul sistema cardiovascolare, con uno sport di velocità, di rapidità, di tecnica, si pensi al tennis, si pensi al calcetto, si pensi anche alla palestra, alla kickboxing, a tutte le attività tipo aerobica che possono fare le donne. Questo abbinamento è senz'altro ideale. Poi il secondo criterio è il criterio del divertimento. Cioè, secondo me possiamo integrare utilmente uno sport che ci costringe a una certa autodisciplina, a un certo sacrificio, sempre inteso in senso nobile, non in senso stretto, con uno sport che invece sia assolutamente ludico e di divertimento. Questo ci consente anche sul piano psicologico di coltivare due aspetti del nostro carattere che sono complementari. E il terzo criterio è altrettanto fondamentale integrare magari uno sport individuale con uno sport di squadra, perché il fatto di trovarsi a fare sport con altri rafforza la nostra motivazione, e quindi nel momento in cui andiamo in crisi, il fatto di non farlo sempre da soli, il fatto di non dipendere soltanto da noi stessi, ci può aiutare almeno al 50% a continuare. Quindi direi i tre criteri fondamentali sono questi, poi su questi criteri esistono diverse varianti, è ovvio. Elio ci chiama dalla provincia di Milano. Elio, buongiorno. Pronto? Elio, buongiorno, siamo qui. Sì, buongiorno. Lei è mono o più sport? Senta, io faccio bicicletta e palestra tutta la settimana. Mm. Faccio la bicicletta un giorno alla settimana. Sì. E palestra tutti gli altri giorni. Non mi piace correre. Volevo sapere se la palestra è ottima per fare lo sport e anche la bicicletta, oppure se devo integrarlo per forza con la corsa a piedi, eccetera. Anche perché mi ritrovo con le gambe che sono molto muscolose, però ho la pancetta. Elio, la pancetta. Elio, sentiamo il dottor Confalonieri che... Direi che la sport corsa... che non ci piacciono non ce ne fa fare. No, questo è sicuramente no. Questo è sicuramente un vantaggio, un pregio del dottor Confalonieri. Quindi direi la corsa assolutamente non è necessaria. L'alternanza di uno sport aerobico come la bici e di un'attività prevalentemente di forza come quelle che si fanno in palestra va benissimo. Due consigli rapidi. Il primo: in palestra lavori soprattutto sui distretti muscolari non impegnati in bicicletta, quindi addominali, lombari, muscolatura del tronco e muscolatura delle braccia. Secondo, durante l'allenamento in palestra inserisca un lavoro di cardio fitness fatto magari non sul tapirulan ma sulla bike, perché gli piace pedalare, però di una certa intensità, quindi non tanto il lavoro continuato ma un lavoro in cui alterna 30-40 secondi, un minuto ad impegno elevato con 30-40 secondi, un minuto a basso impegno. Questo gli consentirà di completare gli effetti a livello del sistema cardiovascolare dell'attività che ha, e avrà anche un buon effetto dimagrante per la pancetta del nostro amico. Le leggo così flash qualche messaggio. Basket una volta alla settimana e corso una volta alla settimana vanno bene, ci scrive Federico che ha 43 anni. Vanno bene, nel senso che integriamo uno sport individuale come la corsa e prevalentemente di resistenza con uno sport di gruppo in cui le doti fondamentali sono la rapidità, la velocità, la reattività, quindi è un ottimo abbinamento. Roberto gioca a tennis 5 mattine alla settimana, solo doppio però ci dice perché è un po' più tranquillo, ma Roberto vorrebbe integrarlo con qualcosa. Dove lo mandiamo? Beh, giocando già 5 mattine diventa difficile trovare lo spazio per fare qualcos'altro. Io direi mezz'ora, 45 minuti di ginnastica fatta anche a casa, prescritta da un esperto, mirata soprattutto a riequilibrare quello che è il problema del tennis, che essendo uno sport monolaterale tende a creare degli squilibri proprio perché c'è un impegno prevalente di una parte del corpo rispetto all'altra. Ho bisogno che lei ci dia anche un po' una tabella dei tempi, perché come nel caso del nostro amico che gioca a tennis 5 volte alla settimana, volendo integrarlo uno ha già 5 mattine alla settimana già occupate, per cui dovrebbe rinunciare o a 2 mattine di tennis per inserire qualcos'altro e quanto, oppure un'attività come lei diceva, la palestra in casa, esercizi fisici. E poi ci sono SMS che ci chiedono sì, ma quanto deve durare? Se il mio sport preferito, non ho problemi, lo faccio 3 volte alla settimana per un'ora e mezza, quello che va a integrare l'anima gemella, ogni quanto e con che alternanza? Possiamo essere così precisi o è troppo? No, direi che la domanda è pertinente. Inizialmente, se decidiamo di integrare due sport, è fondamentale non ampliare lo spazio che dedichiamo allo sport. Cioè, se noi abbiamo a disposizione quello spazio, per esempio 3 volte a settimana, invece di dedicarla ad un'unica attività, una volta alla settimana, una volta ogni 15 giorni, inseriremo una nuova attività. Poi, nel momento che si creassero i presupposti come motivazione o come tempo per ampliare la pratica sportiva, allora potremmo aumentarlo, ma sarebbe un errore inserirlo all'inizio. Rischiamo poi di tornare indietro. 800 24 00 24, andiamo nella provincia di Campobasso prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, perché c'è Aureliano che ci aspetta. Buongiorno Aureliano. Buongiorno. Via con la domanda, rapidissimo. Volevo sapere dal professore se a quanto equivale un'ora di sci di fondo. Io lo pratico una volta alla settimana, sì? E in più faccio il ciclo amatore, adesso faccio la cicletta tutte le sere per tenere la gamba. Però volevo sapere settimanalmente a che cosa equivale 4-5 ore di sci di fondo a livello calorico, come dispendio di sì, calorie. Perché questo le darebbe più soddisfazione, Aureliano. Allora, sul sci di fondo e dispendio calorico, prima delle strade. Diciamo che 4-5 ore di sci di fondo equivalgono a un dispendio intorno alle 2000-2500 calorie. Il dispendio dello sci di fondo a parità di intensità è leggermente superiore al dispendio del ciclismo, che il nostro ascoltatore ama, proprio perché c'è un impegno sia degli arti superiori sia degli arti inferiori. Dottor Confalonieri, allora bisogna integrare, almeno sarebbe meglio. È un'opzione interessante. Ecco, è un'opzione per gli adulti, ma per i bambini potrebbe essere invece un'indicazione, un suggerimento, la ricetta giusta? Perché molti genitori ci sono proprio dei punti di vista diversi tra la mamma e il papà. Ad esempio, il papà dice no, che faccia uno sport seriamente, e la mamma dice no, facciamogli provare più sport perché l'amico gioca a calcio, l'altro vuole provare il karate. E a parte il discorso del tempo, e questi corsi comunque costano, ma le scuole si stanno un po' attrezzando, lei che cosa suggerisce? Ma direi che fino ai 10-11 anni io sarei tassativo nel consigliare l'infedeltà ai bambini, quindi il fatto di praticare diversi sport ai bambini, non le loro mamme e il loro papà. No, lì non mi permetterei mai di raccomandarlo, e sarebbe fondamentale magari cercando anche prevalentemente attività strutturate in forma di gioco, oppure attività collegate con la musica, che possiamo equiparare allo sport. Quindi, non so, la danza con uno sport di squadra, o la danza con il nuoto, l'atletica con uno sport di squadra. Però almeno due attività vanno sempre integrate. Magari che non siano entrambe... Il calcio con... così a bruciapelo, diciamo, il calcetto, i bambini, mio nipote ad esempio giocherebbe sempre a pallone. Esatto, bisognerebbe integrarlo. Se gli proponiamo la danza non la fa. No, classicamente con il nuoto, perché consente di riequilibrare ciò che va a creare il calcio, ed è uno sport efficace per il sistema cardiovascolare. Però ecco, fino a quell'età sicuramente due. Dopo, se c'è una predisposizione all'agonismo, che c'è in molti bambini, allora può essere utile scegliere lo sport più adatto e indirizzarsi con maggiore impegno rispetto a quello sport. Sergio ci chiama dalla provincia di Modena. Sergio. Sì, pronto. Buongiorno. Non vorrei chiederle se è fedele o infedele, perché l'abbiamo coniata solo per i bambini, ma naturalmente per lo sport. Lei? Io sono infedelissimo allo sport. Infedelissimo. Io ho 47 anni e 15 anni fa mi è stato diagnosticato più o meno una spondiloartrite sieronegativa. E quindi mi consigliarono di fare della piscina per fare del movimento, se no con l'andare degli anni avrei avuto le giunture, qualche movimento strano che poteva darmi più fastidio. Sì. Purtroppo con gli impegni di lavoro e di famiglia non riesco a fare niente. Cosa posso fare? Senta Sergio, è un problema diffuso questo, forse non ne abbiamo noi un po' anche la cultura al movimento e non riusciamo a infilarlo, almeno questa è un po' la teoria del dottor Confalonieri, che dice che volere un po' potere, ma un po' la pigrizia ci tira un po' dietro. Dottor Confalonieri, quindi non riesce a fare neanche il nuoto, che sarebbe lo sport più indicativo mai il nostro ascoltatore? No, perché i bimbi sono ancora piccoli e il problema è durante il weekend, che quando poi arriva il lunedì ho mal la schiena, ho mal le spalle, ho mal tutto, certo. Perché non facendolo mai mi trovo lì, quindi devo solo andare in piscina e darmi una mossa, in parole povere. No, potrebbe fare qualcosa a casa, che è più semplice da organizzare, basterebbe 30-45 minuti tre volte a settimana, sia di ginnastica, ovviamente prescritta da uno specialista, sia eventualmente di elettrostimolazione. In questo caso l'elettrostimolazione può essere sicuramente indicata, potenzia in modo adeguato la muscolatura, sostiene la schiena del nostro amico e migliora la sua problematica. Poi quando i bambini cresceranno andranno insieme a nuotare. La lotta con i bambini, che lei suggerisce spesso, come però attenti. Sergio non può farla. Attento, sì. Grazie a Sergio. Vito ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno, io volevo fare una domanda al professore, sì. Perché un suo collega mi ha consigliato, probabilmente con ha dei pregiudizi nei confronti della corsa, di non correre, considerata la mia età, ho 48 anni, sono mediamente uno sportivo, gioco a tennis due volte alla settimana. Un ragazzo praticamente, Vito, teniamoci su, un bambino, noi siamo ragazzi. E la domenica integro con della palestra agli arti solamente superiori, visto che le arti inferiori già, li, credo di muoverli già abbastanza, considerato che faccio del tennis singolare, non sì. Doppistico. Volevo capire se questi tre concetti del mio medico, il mio medico di famiglia, possono trovare fondamento oppure no. Lui dice che la corsa è comunque un qualcosa di traumatico e che comunque nel tempo logora il fisico, è come un motore che tiene sempre in moto, la durata del motore diminuisce. Sì. È vero o non è vero? Dottor Confalonieri, grazie Vito. Beh, io non conosco la realtà specifica, quindi diciamo che contraddico un po' in linea generale il parere del suo medico, non sul caso specifico. È evidente che la corsa è un'attività che si associa a dei microtraumatismi ripetuti e quindi a una sollecitazione soprattutto a livello articolare, però impostata con gradualità è sicuramente consigliabile, soprattutto in una persona attiva come Vito, che già fa del tennis due volte a settimana, quindi già sovraccarica con uno sforzo rapido e intenso le gambe, la schiena e quant'altro. Per cui io mi sentirei di dire sì, se non ci sono controindicazioni specifiche, può cominciare a correre facendo poca corsa, alternandola con il cammino e aumentando molto gradualmente, magari con l'accortezza di cambiare il terreno tutte le volte e di scegliere le scarpe più adatte. Allora, dottor Confalonieri, noi abbiamo proprio un minutino per ricapitolare le indicazioni per i piccoli, per gli adolescenti, che sono sempre un po' trascurati, perché è un po' il nostro problema quando i genitori smettono di accompagnarli in giro per tra piscina, palestra, loro si siedono un po', e questo l'abbiamo detto tante volte, è un problema serio. E per chi non è più ragazzo, dottor Confalonieri. Quindi bambini, più sport in forma di gioco fino a 10 anni e poi scegliamone uno su cui concentrarci. Adolescenti sono un problema quasi insuperabile, io direi sicuramente sport di squadra che favoriscano l'aggregazione o comunque vissuti e condivisi come gruppo, e poi dopo, se possiamo, integriamo uno sport di resistenza con uno sport di divertimento, di squadra o di rapidità. Un ultimo consiglio: esistono attività come il triathlon, per esempio, che ci consentono di fare la sintesi rispetto a quello che abbiamo detto oggi. Scegliere uno sport solo, competere in uno sport solo, però alternare come allenamento tre discipline complementari: il nuoto, il ciclismo, la corsa. Questo può essere un messaggio finale che sintetizza quanto ci siamo raccontati oggi. 30 secondi. Io ho citato la lotta perché noi ne avevamo parlato in diverse trasmissioni, la lotta con i figli, e questo ha davvero incuriosito. Sono arrivati nel giro di pochi secondi una decina di messaggi su "mi spieghi meglio la lotta con i figli, Massimo". Allora, lei l'aveva presa, ma abbiamo 30 secondi, come una sorta di allenamento. Anche quello, giocare con i bambini può essere, sì, io... ecco, senza farsi male naturalmente. No, con molta attenzione, però ritengo davvero fondamentale dedicare tutte le sere, magari, o comunque spesso e volentieri, 30 minuti del nostro tempo a lottare, inizialmente sul letto, poi eventualmente anche su un tappeto, attraverso varie forme, con i nostri figli. È estremamente allenante per i bambini, che sviluppano in un modo straordinario le loro capacità motorie, e obbliga anche noi a confrontarci con i limiti del nostro fisico e quindi eventualmente poi a superarli, sia attraverso la lotta sia attraverso un allenamento specifico. Grazie dottor Confalonieri, grazie a voi che ci avete seguito, anche questo venerdì è passato, noi ci sentiamo domani in Questa casa non è un albergo, mentre venerdì prossimo col dottor Confalonieri. Scriveteci, seguiteci, state bene. Buona giornata da Nicoletta Carbone.